originale a 1000 per 1000, perché lo conoscevo quando ce l'aveva Gianfranco Tischio. Baltimora, uguale identico. Il volume rosso, davanti scritto con la cosa rossa, si alza il coso microfono e è in casa, c'è tipo baionetta. No, l'ho chiesto perché, allora, dello Shure, proprio negli anni 80, mi ricordo questo fatto, la modulazione era cristallina, limpida, proprio effetto presenza, però non amplificava molto, almeno quelli che avevo sentito io, su baracchini normali, che uscivano anche bene, 3.900, 360 FM, quella roba lì. Mi ricordo questa caratteristica, non aveva modulazioni mostruose, ma la limpidezza era una cosa straordinaria. L'avevo sentito anche da Mario Montari, che lo stava provando in laboratorio. Amplificava ben poco, a meno che non sia modificato quello, non saprei come mai. Allora, come possa essere fortissimo di radio? Forse dipende dalla radio, non dal microfono. No, dipende dalla regolazione che gli fanno. Se uno lo regola a tutto volume, prova a regolarlo bene a vedere se esce bene. No, già, io mi ricordo, ti ho detto, Mario Ottari l'aveva provato, l'aveva messa a manetta su un baracchino, però mi ricordo che non era mostruosa la modulazione, era una modulazione abbastanza contenuta, però la limpidezza, Gianni, proprio effetto presenza, tu come sentivi la persona a fianco a te in verticale, la sentivi in radio. Sì, lo so, perché lì Shure li usa anche mia figlia per cantare, costano un sacco di soldi, ma sono, quando facciamo il karaoke li porta a casa e cantiamo con quelli lì, e sono bellissimi, sono precisi, hanno una timbrica bella, dai. Quello era un bel mic da tenere da parte, da prendere e comprare nuovo all'epoca e tenerselo, però poi sai che si sarebbe rovinato tanti anni fermo. Comunque la cosa strana, già a proposito di lasciare la roba ferma, tutti quei baracchini degli anni 80 inizio 90 che io ho lasciato fermo 15 anni funzionavano tutti, funzionava il Connex 4000 Echo, funzionava l'FM 500S, il 548 6X, il Viking 2 e poi quel portatile che ho io, il Maxcom, funzionavano tutti, nonostante fossero stati proprio 15 anni spenti, sepolti negli stanzini. È una cosa strana. Adesso questi apparecchi nuovi, basta che li lasci magari un anno e mezzo, fermi, e già no, non funzionano più. O non si sente l'audio, o non trasmette l'audio, o altre cose. Sì, quando ero al telefono io. Allora, Marcolì, ti spiego. Quando c'era allora, a quei tempi, nell'80 sono vado errato, Gianfranco, che aveva l'LMS 200, aveva lo Shure, e usciva abbastanza forte. Io questo l'ho adattato qua, sul Galaxy, ed esce una bomba. Niente di strano che se lo attacco a un baracchino normale, vuoi cercare normale di quei vecchi, ora si pure che esce normale, capito? Amplifica no a questi livelli qua. Questo è giustamente il Galaxy è qualcosa più di superiore e accetta bene, diciamo, questo microfono, ecco perché esce forte. Adesso sto uscendo strappato, per dire, sei tutto a scariche. Ma io sto usando, sono avvicinato troppo al baracchino, sto usando un altro microfono, ma non lo Shure, capito? Mi sono avvicinato troppo la bocca al microfono. Ma sei attaccato? Attaccato che cosa? Il lineare attaccato. Non ne ho lineari, ti faccio vedere la fotografia, la faccio qua. Io lineari non ne ho più. Niente, zero. Quell'altro si era bruciato, l'ho buttato da una parte. Cappabu. Io lo sento a scariche, Marco, non so se tu lo senti qui. No, allora diciamo, certe volte sembra quasi di splatter, perché l'emissione è veramente troppo larga, veramente, anche adesso a baracchino un po' certe volte non ne sta dietro. E l'escursione poi va da un 8,5 di segnale a 9,15 modulato. E quindi questo, vedi, questa anche la lancetta va anche indietro, anche la timbrica. È come se fosse al limite della larghezza di banda, è troppo largo, quindi il baracchino lo sente che sembra quasi di splattermi a momenti. Aspetta, guarda adesso com'è Gianni, stavo uscendo con 3 watt, adesso ho messo la potenza del baracchino, 1, 2, 3, prova di modulazione. Chiarissimo. Lo lascio così, ok, e per te Marcolì? Sì, meglio, praticamente prima avrei avuto 1, 2 watt e il resto modulati, no? Però c'era questo effetto troppo tra, mi, come già ho capito cosa intende Gianni. Io la preferirei così, oppure comunque come prima, però molto ma molto di più abbassata, proprio drammaticamente abbassata, perché poi se no non è chiara, capito? È troppo amplificata. Cappa. Adesso cosa stai usando, dottore? Adesso sto usando l'M+4 ZG. Con le Galaxy. K. Invece io sono con il Cobra. Sono col Cobra e il microfono è quello, Marco, come si chiama? Aiutami, non me lo ricordo mai. RM Italy. Allora, io sto andando a batteria. Col baracchino, sto andando a batteria. L'avevo attaccata per vedere se una volta caricata funzionava correttamente. Quindi il baracchino a batteria, invece la scarpetta, che non è necessaria, ma vabbè, era per farla funzionare. E quella è con l'alimentatore K. E il 3009 col mic, il KP a metà, perché a metà la manetta non avrebbe senso. Vediamo un po', non credo che abbia molto senso, e poi prende tutti i rumori di fondo. Io ce l'ho meno della metà, Marco. Ehi, ma il microfono qual è? KPO. KPO, ho capito Italy, credevo RM Italy, tipo la scarpetta. No, il microfono, non mi ricordo mai come ti si chiama, perché è un nome strano, capito? È come l'antenna della macchina, non lo ricordo mai il nome. Ohia. Vabbè, l'età c'è e quindi stiamo rimbambendo, no, quello no. Io, vediamo un po', ora, allora, adesso così sono distante 40 centimetri dal mic, è come che fosse un mic da tavolo, regolato a metà, e così sono tipo 4 dita, però di 3 quarti, non frontale, se no gli fa gli sputazzi. Io, guarda, sono un braccio lontano, il braccio mio è lungo, Io sono quel tipo di stato stesso tra il microfono, sto usando la potenza normale del baracchino, non basta. Prima era proprio 2 o 3 watt, non di più. Adesso l'ho rimesso al suo normale, originale. E dovrebbe andare bene come radio. Ehi, la potenza normale del baracchino. La normale potenza. Chiaro, chiaro. Oh già, ma che microfono è questo? C'è, che baracchino è? C'è questo bip corto da 1000 Hz più o meno. Questo qua è il Cobra. Oddio, già mi perdo, ma quale? Quello, il 29LX era ancora. Eia, sì, quello lì. Ah, ce l'hai ancora? Io avevo capito che l'avevi venduto. No, il 2000 è, 2000DX. Non ti seguo già, non ti sto dietro, che ne hai avuti così tanti di radio lo stesso, che poi cambiate anche, rivendute, che non mi ricordo, a malapena mi ricordo quello che sono io. Allora, questo qui è quello che c'ha 30 watt in AM e 100 watt in banda laterale. Cobra però. Ah, quello con il display, ho capito, sì, col frequenzimetro, eccetera, me l'ero dimenticato già. Il 200 GTL DX, quello lì. Sì, quello là. C'è una portantina ogni tanto. Forse qualcuno sta chiamando ma non sta uscendo. Chi vuole entrare avanti? È il mio bip come Marco lì. È un po' più acuto di quello di Gianni ed è appena più lungo. Che ne so, quello di Gianni potrebbe essere 150 millisecondi. Il tuo come lunghezza è tipo questo, un 200 millisecondi a orecchiometro. Ma non è il suo originale, penso, del Galaxy. Questo l'hanno cambiato, senz'altro. No, non è l'originale del Galaxy quello. Anche l'eco qua hanno cambiato. Adesso hanno messo tutto un blocco. Tu senti un po' come sta parlando con l'eco. Vedi, è tutto diverso. E ripeto, è troppo però. E allora, perché non c'ho fuglioni. È balbuziente. No, proprio balbuziente non penso, ma col padrone. Buzioso. Avanti, Marco. Sì, ma siamo 3 gatti oggi. Natalino non è entrato, Luca Flipper non c'è più. Vabbè, l'altro Luca doveva uscire. Luca mi sa che doveva portare giù il cane. Ma con la pioggia le ha fermate, poi con la pioggia portarlo, poverino. Infatti vuole tornare sempre a casa. Quando lo porto con la pioggia andiamo sotto gli alberi, ma è sempre un po', se l'albero è bagnato ti bagni lo stesso. Comunque ne ha fatto un po' di acqua. Comunque ormai dopo di tregua c'è il sole a nuvoletta e poi inizia di nuovo a piovere lunedì e martedì. Ma se la fa gradatamente, Tony, va anche bene, perché adesso hanno piantato e stanno crescendo le piantine, quindi va anche bene che le innaffia. Ma se pioveva tutta la notte mi andava bene, la mattina usciva il sole e la notte pioveva, io ero l'uomo più felice del mondo. E il metro volte ti bestemmiano, eh? Che lavorano di notte, poveracci, guardiani, vabbè, ognuno tira l'acqua sul mulino, Tony. E allora, siamo mai contenti, tu. Vabbè, già abbiamo il mezzo per spostarci noi, quindi. E tu, Marconi, che fai di bello? E così, ogni giornata ora l'altra. E un po' le scatole, commissioni, tutto dovere, poco piacere qua. Adesso dopo il tempo, dice, piovoso, potrebbe venire un caldo bestiale, dicono, bisognerebbe essere vero, però speriamo di no, perché il caldo per me è la morte. No, per me va bene il caldo, non c'è problema. Comunque già, arriverà un giorno che Marcolino avrà 70 anni e usiamo sempre Marcolino. Beh, come Natale lo chiamiamo Natalino, è più, c'è abitudine anche, d'altronde io da lì anni 80 che mi chiamavo Marcolino, anche perché c'erano Marco più grandi, quindi non è che c'era da sbagliare all'epoca, non potevi confonderli. No, assolutamente, dall'epoca ti chiamavo Marcolino, quindi. Giannino, riprendi, Giannetto, dai, suona meglio. Gianni, oh Gianni. Stavo facendo un'operazione. Non voglio dirti un'altra cosa, mi è venuto in mente. E cosa ti è venuto in mente? Merluzzo. Cosa? Merluzzo. Buono. Tocca mi sto pesce. Ma cosa si infende? Sempre infende, ma molla tutto, dai. No, quindi stavo cambiando radio. E vedi il casino che fai tu. Sempre, non stai mai fermo con la radio. Se stai uscendo bene, fai anche devi cambiare il microfono. Poi fai casino, ti intrucci le dita, ti fai male, ti fa la bua, scivolo, ti sbatte il culo in terra. No, le radio le sto facendo girare. Ogni tanto lo faccio girare, dai. Quello che l'ultimo che hai dato tu è sempre aspetto, ho perso un po', ma... Quale che ho perso... ho perso il ricordo. Ui, questo si chiama il palomar, SS1600. Ah, il palomaro? E perché non lo accendi? Tocca smontare l'antenna qui, agganciare lì, smontare dall'altra parte, c'è casino. Se avete avuto ispezioni, io c'ho anche il colto, ho buttato l'antenna. Non c'ho ispezioni. Ma sta fatti, ne risavi voi. Capo, non ne ho più, l'avevo dato alla persona, poi l'ha voluto, l'ho dato, non avevo più, non avevo più, un elettricista che non sa fare due capi. No, che non so fare, non ho capo, non ho PL. Adesso io faccio una cosa, quell'antenna che non l'ho usato per il PMR, ci sono roba di 10 metri di cavo, o 12 metri, lo stacco e mi faccio gli ispezioni per il commutatore d'antenna, capito? Almeno ne ho un bel capo e non lo do più a nessuno. Poi domani dovrei sollevare l'antenna di altri 2-3 metri, dovrei comprare il cavo ancora più lungo, perché questo non mi basta più. Prendili da fusare il PL. Sì, che te ne mangono in mano. Eia, sì, per quello l'ho detto, sono allucinanti. L'ha detto anche le Marchi, addirittura dice che gli hanno spedito a loro, poi bisogna vedere se è vero, se sono in buona fede. Il fornitore gli ha venduto questi PL in bachelite come bachelite vera, poi si è scoperto che era plastica color bachelite. Io guarda, se voglio PL seri, chiamo una persona fuori, GB, che è un amico, se viene il coso già lo sa, Gianni. Mi manda i soldi, mi faccio mandare una decina di PL come siete. Allora sono tranquillo. Marco, io guarda, ti dico la verità, ho comprato dei PL di quelli bianchi, che non li ho comprati, ce li avevo da tanto, che avevano la cosa bianca, non li usavo mai perché tutti dicevano. Beh, questo PL io l'ho messo nell'antenna praticamente a tubo 2001. Che quello che avevo nell'antenna 2001 l'ho messo nell'antenna nuova. Ti spiego, nell'antenna nuova c'era la filettatura che non avvitava, mi stava sparando anche la filettatura dell'apparato che mettevo in macchina. Quindi cosa ho fatto? L'ho sostituito, l'ho messo un PR come si deve con le macchinette ed è andato bene, e ok, mi ho risolto. Poi praticamente ho preso uno di quei PR che avevano la cosa bianca invece che averlo in macchinette, la plastica. L'ho saldato tranquillamente, non ho avuto nessun problema. Saldato, non si muove niente, proprio perfetto. Adesso che siamo di quelli di tanto tempo fa che erano più forti, A me quello in bianco e in plastica mi si è sciuccio. Scaldatemi, perché ho saldato un PL, capito? Io prima lo metto a testa in giù il PL, faccio scendere tutto lo stagno dentro e poi lo metto dritto. E l'ho saldato, capito? Quindi non è che non l'ho saldato. Allora io quei PL di Fusaro, siccome non avevo PL per il cavo grosso, li ho dovuti prendere da Fusaro. Ero proprio senza. E per fare lo spezzone col barilotto ho dovuto saldarli senza farli surriscaldare, il giusto. Saldati bene, trattati piano piano senza forzarli, perché sennò anche avvitando il cavo, no? Per fare serrare la calza, se spingi troppo tenesci l'isolatore, proprio esce in fuori, viene spinto fuori. Me lo vedo che sta tenendo. Poi quando il tempo sarà migliore e finalmente finirà questa storia del ponteggio e dei muratori, gli farò tutta la vulcanizzazione. Ok. Ma i muratori non hanno finito? Scomparsi, sono spariti da Natale. Anzi no, da me sono venuti a gennaio a fare parzialmente l'intonaco del ballatoio, dai, del terrazzino. Poi vabbè, non si sa se hanno fallito, non si sa niente. Hanno anche paura a chiedere i condomini. Adesso vi ha debitato tutta la botte, l'immagine. Comunque già, mi ha detto mia zia, allora il Torrino è spesa privata, no? Così come i ballatoi. Una parte del ballatoio è spesa privata nostra. Ma mia zia, che si intende di questa roba e da poco l'hanno fatto in Viale Mameli, dice per un Torrino quello è un prezzo da... è un furto, è un prezzo da ladri. Oh via. Tutti qua te ne approfittano, capito? Anche vicino a casa c'è un antico dottore, conosco anche, diciamo, l'imprenditore che c'era, stava facendo un palazzo, però stava continuando. Già, io so che questa impresa è nata dal nulla, non era un'impresa solida già esistente, è nata dal nulla, due mesi prima di iniziare i lavori. E secondo me, adesso non voglio pinacciare, ma secondo me nel nulla sparisce questa impresa. Speriamo bene, vabbè. Ma non è che abbiamo bocciato il 110 per caso? No, approvato e tutto, siamo anche, i pannelli li hanno messi, non del tutto, perché all'ultimissimo piano, cioè gli ultimi pezzi all'ultimo piano non sono nemmeno stati piazzati. Però qua troppo tempo, non c'è più parcheggio per questo ponteggio che prende una marea di posti auto. È uno schifo. Non puoi aprire bene le finestre perché per esempio sulla finestra del bagno passa un palo proprio davanti, non lo puoi spingere in fuori. È un disagio avere questa roba in mezzo alle scatole. Io ho visto il palazzo gigante, perché lo chiamo gigante perché è enorme, perché se guardi da sotto, dove c'è Ferrari, prima del cavalcavia, e stanno finendo, e grazie a Dio stanno continuando a lavorare ogni giorno, a meno che non piove forte, e questo è un lavoro di servi. Ma ti trovo come ponteggio spaventoso, enorme, se non so se ce l'avrei visto passando per andare, non so, produttore, se vuoi andare o dove vuoi andare, praticamente per entrare in via produttore c'è il cavalcavia, quel palazzo c'è Ferrari, c'è questo ponteggio mastodontico, prima era un fianco, poi era dietro, adesso è davanti, è l'altro fianco, e sarò per finire come lavori, bello come lavoro. Ho visto che lì almeno hanno anche pitturato, e lo sai che in Viale Mameli, angolo via Capino Matta, c'è lo stesso un altro palazzo con i lavori fatti, che hanno tinteggiato anche, però c'è questo ponteggio da un anno e mezzo, fermo. No, un anno e mezzo fermo no, però fermo almeno un anno, cioè non si vede più nessuno, sono spariti. E così credo anche da Carlo ICB. non si sa come evolve. A proposito, Gianni, ma Carlo sta più entrando o non è entrato più? Sta entrando poco perché stava pitturando la casa, cioè stava pitturando veramente la cameretta della figlia che deve rientrare dall'Australia. E poi la moglie ha detto, visto che ci sei, pittura anche la cucina, ha dovuto smontare tutti i pesi e tutto quanto, però non lo so se abbia finito adesso, boh. Io sto entrando anche così, quando capita sto entrando, però il poco che sto entrando non lo sento più. Una volta bene o male lo beccavo che tornava da lavoro, andava a lavoro, oppure entrava a salutare qui, eccetera. Va bene, comunque sei indaffarato, posso capire. Era in ferie, la moglie l'ha messo sotto turchio. Sì, praticamente uno prende le ferie da lavoro al limite per riposarsi, no? O per far viaggi, per distrarsi, invece no, cosa gli tocca fare? Lavorare in casa. E che ferie sono? Lo so. Ma purtroppo tutti quanti abbiamo fatto così, Marco, quando c'è famiglia è così. E chi lo fa se non lo fai tu, se no devi pagarti l'operaio. Ma noi avevamo fatto così quando in cucina c'era da tinteggiare tempo fa, l'ha fatto l'operaio tutto lui, carta vetrale, pitturare, tutto. Vabbè, certo, anche bisogna che mi decida la cucina devo fare, perché quello di sopra che si è allagata la casa mi ha inumidito la cucina e anche una parte della sala, ma appena appena, si sta sfogliando la pittura. Ti deve pagare i danni? Glielo metto 50.000 volte in Torino. Mi ha detto sì, lascia asciugare che poi vengo, lui fa quel lavoro lì, non c'è un'impresa idile, quindi non gli costerebbe nulla mandare un operaio a farlo lui, non lo so. Però vai di chi sì, vabbè, meglio prenderli che trovarli. Mi fai mandare a letto l'avvocato, che molto ci vuole. Ma il tipo come ha messo male economicamente? Diciamo che c'ha 10.000 euro di debito col condominio, non ti riguarda. E hai detto tutto lei. Guarda, una situazione simile c'era, vabbè, non dico il posto, qua su, più in alto, no, non qua. Tant'è che l'amministratore, che è lo stesso di qua, si è rotto le scatole e ha detto, beh signori, io do le dimissioni, arrangiatevi, perché c'erano troppe cose risolte, che non potevi fare niente, nessun lavoro, perché chi era moroso da anni, o chi non aveva fatto, non so, passaggi di proprietà e bloccava anche i lavori del 110, anche volendoli fare, tutto un pasticcio era. Non qua, ribadisco, non qua. Anche qui da noi è successo così. Si è andata via la capocondominio perché non ce la faceva più. C'era quella che ti metteva l'avvocato perché praticamente non quadrava i conti dell'acqua, l'altro che non pagava, quell'altro che non pagava le mutuo nel condominio, né niente, cioè era troia. Di solito questo palazzo sono tutte persone per bene, tranne questo qui che è la piccola vera, non paga nulla. Però usa l'ascensore, non dovrebbe usare manco le scale perché non paga manco la dolore delle scale qui. Usufruisce delle cose che paghiamo noi. Oh già, ma a chi l'avevo detto? A Natalino, non te l'avevo detta la prodezza, l'altra prodezza che hanno fatto qua i muratori? No. Allora, hanno preso male le misure o non le hanno prese proprio, sono andati a occhiometro e mettendo il tassello che blocca i pannelli hanno perforato la colonna montante da un lato solo. E però usciva acqua, c'è stata una perdita l'altro giorno. Praticamente si è fatta strada lungo la schiuma che avevano messo, piano piano, finché ha trovato la via, l'acqua è... cioè, ci pitò. Di cosa stiamo parlando? Ma... quali si sono fuggiti? No, intanto gli arriva la, presumo, la letterina per l'antenna tagliata, il cavo tagliato, che ancora mi devono dare 125 euro. E poi anche la colonna, sperando che sia solo un foro circolare, un forellino, e che non sia filata. Perché sai, se tappano magari a massa battente, magari gli dà una scucciolata alla colonna e ci può essere anche una filatura. Se non filatura bisogna pure intervenire e aprire tutto. Per adesso abbiamo rimediato, aprendo una finestrella e tappando il foro che è circolare. Però non si lavora così. Non è modo di fare, anche proprio il modo di fare tipico, no? Hai capito già, sì, tu ci hai lavorato tanti anni. Ah beh, certo che sì. Hai capito al volo, vai Tony. Ehi capo, meno male che io condomino non ne ho. Sì, guarda, infatti ha detto, vabbè, una persona, ha detto, guarda, il condominio è una maledizione, meglio starsene lontano chilometri dal centro cittadino, ma essere indipendenti, avere tutto per i cavoli propri, l'acqua dal pozzo, tutto quello che vuoi, purché non sale il condominio, perché il condominio è una specie di zoo, uno zoo. Io sono circa 3 chilometri da Sassari, io sto troppo bene, io 3-4 minuti sono a Sassari, per dirti. Non ho nessun problema, cioè adesso sono indipendente, adesso non mi rompo le balle, faccio quello che voglio, metto la macchina davanti al mio cancelletto e non devo messare con nessuno. Ho tanto di quel parcheggio, tutta la zona in cui abito, mi hanno dato il prezzo anche di dietro e sono tranquillo, dai, non abbrego nessuno io. Sì, infatti sta bene, si può mia zia, la campagna bancaria è di mia zia, praticamente lì, ci va a quei 3 mesi d'estate. E vabbè, fa un caldo bestiale anche lì, però almeno sei lontano dalla città, dal caos, da lavori, condomini, tutto, capito? Puoi dimenticarti della civiltà lì, anche, e volendo. Io sto troppo bene qua perché ho un caratterino, è meglio che sono qua, perché se no mi ho abbriato ogni dì, già mi conosce il carattere mio. Ah, così è. Ma un po' ti sei calmato rispetto, che ne so, rispetto a una volta, anni 80. No, adesso sono peggio. Ah, quindi con l'anzianità un pochino si diventa ancora più tirioso, così è. Sono più impulsivo. Vai, fine, la vai! Vai, vai! Mia Manuele, mi. Sì, già ne ho assistito qualche cosettina quando stavo prendendo QTHH. E basta, c'era questo trammino, questo trampicolino tipo policina che sta facendo dei disabili eccetera, e mi sono fermato dietro e mi dice la cosa, io dopo già c'era la stampelle e alla fine mi sono incazzato, sono uscito fuori dalla macchina e ne ho cantato 4. Ma poveraccio, quello lì stava caricando i disabili, dai tu. C'erano varie carrozzine con i disabili dentro. Aspetta, non lo vedi cosa c'è scritto, disabili. Già, perché tu così non è un disabile? Sì, anche io in quel momento lì sì. Io mi è salito il sangue e il bollore e quindi non ce l'ho, è più forte di me, non lo devo fare. A proposito, hai visto su WhatsApp, ti ha mandato la legge di chi ha operato le gambe con fece di validità? 30-40%. E tu hai detto che la tua dottoressa ha detto che una volta che l'hai operato non ne avevi più di validità, non è uscito. Allora, sappi che io ho detto di Manuele che quando ho letto che adesso che ho operato dice non gliene danno pensione, infatti Manuele ha fatto la domanda, l'uomo gliela fa, gliela rifugio, gliela ha fatto lo stesso, poi com'è andato a finire? Ma Manuele, capito, solo per quello non gliela danno. Se hai altre patologie, sì, devono essere patologie accumulate. E a me l'altro giorno sono andata lì a fare la visita e mi ha fatto abbassare i pantaloni, era una donna. Mi ha fatto abbassare i pantaloni, ha avuto delle cicatrici sia del ginocchio, quando mi hanno operato il ginocchio, sia delle gambe. Sì, ma quando vai in pensione te la tolgo, non ti preoccupare, non è bugato a me, che io sono cardiopatico, ho fatto il conto. A me non lo so, io 99% di validità, già. Però non vale nulla, chi di meno, anzi. Allora ti danno qualcosa se sei al 100%, deve essere i guacci dell'undutto, però poi ti tolgo la patente e non copiere più. Quanto ti hanno dato a te di validità? 99. Ah, vero. Caffa, ma non vale niente, è come che non hai niente, perché automaticamente se ti metto al 100% ti danno qualcosa di soldi, però ti tocca una patente. Io siccome non abito in città, se mi togli la macchina io sono morto, allora niente. Quindi se la miglia a luce va bene così non c'è niente. 99 è un bel mica. Con il 99% mi pare che ti danno anche la tessera per il tram gratis, eccetera, eccetera. Senza pagare. Ma non ho chiesto niente, non mi interessa niente, c'ho la macchina già, e boh, basta. Ma adesso se mi davo la macchina, tu sì, gli abiti in campagna, la macchina mai mi serve. sono tranquillo, ho risposto abbastanza bene, mentre si vedeva Prisco, Famici, e tornò. Io prendo solo queste pastiglie qua, per il cuore e per il diabete, non basta, non prendo altro. Aspettate, c'era qualcuno bassissimo che chiamava. Chi è che chiama avanti? C'era che Emanuele, Emanuele tu ci sei. Ma come fa mi è sembrato Emanuele? Sì, era lui prima. Ho sentito una modulazione bassa sotto il Santiago 5 che chiamava, ma forse era propagazione. L'ho sentito anche io, ma non ho capito se era propagazione. Infatti non riprende più. Vabbè, allora niente, dai. Comunque, come modulazione, com'è? Come la trovate? Bilanciata, metallica? Cioè sul 3009 nudo e crudo, proprio quello puro, 3009 puro, old style, se doveste ritoccare qualcosa, cosa ritocchereste? Per me sì, ottimo, perfetto. No, perché così faccio il paragone con l'MB più 5 e adesso l'attacco. Ma Romero non ci sei più. Ha fatto l'entrata all'Unione e decidere un mazzone. Oh raga, io vi lascio che vado a fare una doccia. E poi devo andare a portare giù il cane. Sa che non è un buon tabù, devo bene, vado dopo, aspetta ancora un paio di minuti. No, se domani ci vediamo un caffè, dai. Oh, domani sono impegnato, domani c'è gente a casa, poi c'è un funerale, un po' pranzo. Ma sono da te con la pizzeria, Peter Taglio, la domenica è chiuso? Sì. Un stiloso di vecchiare, vabbè, ci penso un altro giorno di feriare per mangiare una pizza quadrata. Allora, le pizze al taglio le fanno sì da giovedì, venerdì, sabato e domenica non le fanno. La domenica perché è chiuso e venerdì e sabato perché hanno troppe altre pizze da fare e quindi non ce la fanno. Meglio saperlo, allora, da lunedì al giovedì con pizza quadrata, dai, al taglio. Andrà bene, grazie all'informazione. Prego. Qui sono ben buone, mi torni, sono ben ingroccato. Sì, che non c'è mai niente a casa tua, non so come. Ah, è vero. Sì. Mi sa, domani domenica, lunedì o martedì me ne prendo qualche due, dai. Mi è giunta la gana. Io ieri mi sono preso la pizza per la bussia e fatto. Non ne prendo più una pizza. Pizza grande non ne prendo più. 540. Che cosa ci puoi parlare? E indovina, mi scriveva HI alta, e mampeggiava, poi ha messo 540, ma che c'è? Il cacchio, e cosa cavolo ti hai mangiato? A proposito, io non riesco a passarla in questo periodo da 200, non ho capito perché. Infatti la visita che ho fatto mi ha messo l'inciolina a 22 anziché 20. Mi ha detto 24, non facevo 22. Allora io ho notato che l'ammasso a 110 mangiando solo un po' di verdura e cerate, boh. Ma non posso continuare a mangiare cerate, boh. No, a me mi ha fatto male la pizza blu. Io mi ho detto la pizza e due arance, ti dico la verità, non ho mangiato altro. E non mi misurata perché non mi sentivo bene, cazzo, mi sentivo un cappuccino, boh, che strano. Ho preso che sono misurato la glicemia, prima mi ha scritto HI, cioè alta, e lampeggiava, no? Poi ha messo l'importo. No, così alta ormai, già una notte sono andato a fare la pipì e guardato, adesso bisogna che sia mia, 3,50, ho fatto il ciolino, domani abbassa di nuovo. Niente, io se tocco mangio pasta, o mangio, che ti posso dire, qualcosa diverso, mi sale, non ho capito perché, boh, a me, non lo so, adesso vediamo. Ce l'ho di nuovo l'altra vista a settembre, un'altra cosa per le analisi, mi devo fare anche l'elettrocardiogramma e anche il recro Doppler, devo fare. E poi se no, ti mangi no. Una baguette con una mortadella, gli altri grillo. A giugno devo fare le analisi, poi telefonarvi e mi do l'appuntamento a luglio. E vabbè Tony, lo sai cos'è? Per me è la prima volta che succede questo qua, perché poi il giorno dopo ce l'avevo 135, non è che mai stata la pizza proprio, la pizza forse abbinata con le arancia, è salita per quello. Arancia è dolce lo stesso. Io l'altra volta avevo ragione, mi sono mangiato una maghetta intera calda, era troppo buona, con due mortadella dentro. Io, Tony, in questo periodo ce l'ho sempre bassa, 135, 86, 78, spunta così di vicino. No, così bassa mai io. La minimo che mi è arrivata a 120, mi sono 118, una parola del genere, boh. Gli altri sono tutti al fine, non ho capito perché. Quindi adesso se me la misuro avrò minimo 140, ce l'avrò. Devi cambiare l'insulina magari, tipo di insulina che fai, non va bene. Ma bisogna dirlo al dottore. Gialli a Bettolo. Allora, scusa ma con ti faccio entrare subito. Ti spiego una cosa, a me mi è andata molto bene, fra. Ho già, ti spiego cosa è successo. Quando ho fatto la visita, mi ha detto, l'insulina che sta facendo, sì, la fotografia, c'è la scatola, se faccio questa qua, sì, va bene, ok. Sì, ma di giorno quando capita che è alta, uso questa qua. Gli ho fatto vedere la foto che me l'ha detto lui stesso di fare quella lì. Ma tu sei scemo, buttala via immediatamente. Quella ti si può fare un blocco di glicemico. Allora, scusa, ma l'alta lì sta qua, non la devi più usare. Ebbene, non mi devi dirmelo prima. Forse la mondezza l'ha già fatto. Tu che dottore c'hai? Facello. Maschio e offerto. Maschio? No, no. Il mio è pestifero il dottore, però è bravo. È di quelli pestiferi che ti risponde un bel secco, un bel bu. Adesso gli ho detto che non mi bastavano le strisce, no, di darmene un'altra scatola. E lui mi ha detto, come non le basta? Non mi bastano, anche perché molte volte le trovo difettose, tu vai a mettere, ti scrive error, eccetera, eccetera. E sono le strisce che non vanno bene. Oppure le trovi, una trovata, una che per dire tutte e due le parti lo stesso colore, di solito è da una parte dorata e dall'altra bianca, perlomeno le mie sono così. Questa era dorata da tutte e due le parti. E lui mi ha detto, no, sono due attaccate, sicuramente lei non ci ha fatto caso, si sono attaccate i due, ho detto, guardi che dottore. Io non sono bambino dell'asilo, le muovo, le faccio per vedere se si staccano, no, a volte si attaccano, queste e quelle, vabbè, vada io, gliele porto se le trovo, la prossima volta, no, non le deve portare a me, deve portare alla farmacia e dirglielo, se le fa cambiare, perché la SL spende tutti i soldi per queste cose qua, capito? Io non voglio esagerare, ma avrò 2000 di quelle strisce per misurare cosa c'è, ma è preso un po' fuggito, non ne parliamo. Ho tutto in più perché tempo dietro una volta sopra misuravo, adesso lo misuro più frequente, ma ne ho un bel. Ogni mese me ne danno, oggi ho ritirato altro e l'ho messo nel mio armadietto di medicina. Marco, a me hai messo questo microfono. Sì, prima ho sentito parlare qualcuno sotto, ha ripreso assieme a Gianni, più basso, molto più basso di Gianni, forse si voleva entrare qualcuno. Comunque il mic è questo, MB più 5 messo solo a metà a distanza, beh, fai un palmo, dai un palmo. Non l'ho alzato molto perché comunque il tono è a 4. Per me è ottimo, perfetto, 5. Questo è chiaro Marco, la tua voce è come se verticale. È molto chiaro, è come hai fatto il discorso dello Shure poco fa. Non è super amplificato, però è bella chiara, forte e chiara, non è super amplificato. Giusto, guarda, giusto sì, perché parlo piano. E il tono, vabbè, se mi dite che è neutro va bene, se no se lo volete più calda lo faccio a 3, me lo metto a 3, se lo volete più acuta lo metto a 5. Perché a 10 inutile, cioè inutile to, ecco, la metto a 10, cosa fa? Fa casino e boh, amplifica tutti i rumori, l'evento e la TV. No, la voce calda della frequenza ce l'ho io. Ai. Anche io, Oh, Bettore. Vabbè, come andiamo, se non fai break. Stavo danzando senza cani nei bracci, per dei ping e pong, tutti e due. Anche tu che si mangia una baguette con una mortadella. E la che ci metti a 1000 così, anche il panino di quasi... Io invece la cosa mi ha fatto un panino con il booster e il ketchup. Buona lì due. Ciao Tore. Beh, allora posso dire una cosa, che Tore proprio l'ho incrociato dietro la Conner che aveva appena preso la baguette con la mortadella. Ma poi mi dici, dai che c'è mio, mi dai a 300. Mi ha fatto sordo Tonino, ha rialzato di nuovo. Ciao Tore, ben entrato. Ho messo quel microfono là, troppo, se alza lo vedi, è troppo. Ho rimesso lo Shure, signori. Tony, se vuoi te lo regolo, abbassalo. È più basso così, no? Mazzo. Ma sacco. E allora non riesco più, no? Questo è a zero. Così esci perfettamente. Allora scusa, mi compro un Ferrari e cammino a uno. E non devi gridare, se no anche così sei troppo forte. E io sono distante 50 centimetri, buono. Qui c'è qualcuno sta parlando, qualche francesino. Dunque, è perché parlo veloce. Vediamo, cercare di parlare più lentamente, così mi capite meglio. Va bene così, Marco lì? Certo, devi essere flemmatico, capito? Bello, calmo, calmo, rilassato. Fa anche bene al cuore essere rilassati. Vai, Vittore. E così non gli batte il cuore. Invece di andare a 1000 va a 10. Alla pensi così. Quanto siete monelli? No, io... Domenico, io ancora non ho capito cosa c'è, però mi ha detto di star calmo perché il cuore ne soffre, però devo fare analisi su analisi, mi sono rotto le scatole di fare analisi, mi vuole dire, ascoltandomi, se voi siete in buon viaggio, ne ho le scatole piene, guarda, non li posso vedere gli ospedali. Sai cosa mi hanno fatto a me? Sono andato io per la visita alla cardiologica, e mi hanno dato la pastiglia con la pastiglia per ammonizzare il sangue, farla più veloce. Per avere il ritmo cardiaco più veloce, allora eri bradicardico, Tore? Mi ha abbassato, ma il ritmo cardiaco ce l'avevo veloce. Mi ha dato la pastiglia per abbassarmelo. E più mi ha dato le pastiglie per il sangue anche. Adesso non devo né gridare né nulla. Io ho preso la carta spedita per essere nel sangue più liquido, per evitare ictus, eccetera, eccetera. Eia, avevo capito il contrario. Per esempio c'era un anziano che conoscevo che era molto bradicardico, cioè il cuore gli andava anche sotto i 50 battiti al minuto, cioè certe volte era talmente lento che rischiava, come il motore che batte in testa, che il prossimo battito non avveniva proprio, capito? Era a rischio, credo gli abbiano messo forse un pacemaker, una cosa del genere. No, è che io invece ho la minima alta, già in condizioni normali ho la minima alta, quindi piano piano stiamo cominciando a entrare in un circolo vizioso, per cui bisogna stare sempre tranquilli, non bisogna fare cose troppo, come dire, o stancanti o che ti mandano sotto pressione. Boh. A come ci siamo? Se tutto va bene siamo rovinati. Vai Gianni. Arrovinati, dice Natalino. Ma Natalino oggi in ferie, in Ramadan, non è entrato. Grazie a che ve l'hanno tutti, vediamo dove va. Poi ci siamo messi bene. Vediamo poi se c'è Luca. Luca, sì. Luca è già in giro. Signori, è l'ora del caffè. Bianco per me. A dopo. Arrivà, papà. Vabbè, io sono da poco fa, non a farmi la doccia. Non c'è un po' cagana, che sono addolori. Ma forse l'acqua calda mi fa bene. L'acqua fredda che ti fa bene, ti sveglia tutti quanti i babucci. Ciao, buon caffè, allora Marcolini, ci sentiamo, avanti Tore. E almeno così ti sveglia anche i capezzoli. E questo? Propagazione. Hola, avanti su de Spagna, isola di Sardegna, Italia chiama. Ha detto mio hermano col quello è sparato. Devo copiarlo per aquí, Abba. Attento mio hermano delle Spagna, se va scusciando la Italia. Attento mio hermano delle Spagna, se va scusciando per amore, regione delta, amore, la città di Sassari e del supercordializzo. Attenzione, my friend, si va copiando la Italia, breco. Oh, buona tarda al breco, aquí su España, Almería, ¿cómo sale esto por ahí? Ehi, Seixo, Sierra Tango, number one de la isla de Sardegna, avanti mio hermano. My friend. Por saliendo de España, Almería, con una línea en base. Está afecto a fenómeno. Creo que mucho bien de estación, mi hermano. Santiago de 9 de 10 en la verde Super 5. Ok, my friend. Muchas gracias a todos por aquí. Volvemos que sigáis con la práctica de la gente. Muchas gracias a escucharos por aquí. Aquí está haciendo en vivo lo que haga falta. Te passo un altro mio hermano della mia città, avanti Gianni. Attento mio hermano, se va scusando per noi, Gianni del Salone della città di Sassari, Sardegna. Saturissimo già. Stavo portando vivo 300 watt, 37. Sì, perché gli mangia tutta la radio. Attento, mio hermano, si scusi la Salvini, adelante. Sì, solita la propagazione, lei che non mi sento. Attento, mio hermano delle Spana, sempre in stazione, Sierra Tango della Sardegna, adelante. Boh, io non capivo manco cosa diceva. Sembrava una specie di pomponio spagnolo. Spagnolo loco! Spagnolo loco perdido! È cantato di... A me pare uno che è in macchina, ma... E allora? Ne siete da bizzardi che fa vedere in macchina chi c'è da bizzino buro catta maria hanno per 60 a me allora lo vendizzo e quindi sono i 20 voi sapete cos'è il tempo che l'offio. mi sembrava strano che fosse così forte. Sì, ma che non ce n'è propagazione, dai, Santiago Pio Pio è il QRM, dai. Con esattezza Santiago 3 e mezzo al QRM, non ce n'è altro. Propagazione non esiste nessun canale, perché io potevo spazzolata veloce. Quindi, la gamma BD, poi, tra l'altro, già non lo copiava. Aio, dai, l'avrei fondato lo Smitter. A me era 960, pensa un poco. No, ma all'inizio era lontano, quindi poteva anche essere, capito tu? No, dai, troppo forte, salito di corpo, poi abbassava. In macchina camminando, in macchina, dai. È impossibile, tu sei nella posizione molto, 100.000 volte meglio della mia. Era un messaggio, l'avrei forzato un po' quanto meno, ti sentiva, meglio, dai. Eppure sapete che il fading sembrava tipico della propagazione, cioè lui mi passava da Santiago 0 a Santiago 9, qua di più non è, però 9 qua è un bel. E sembrava la tipica, invece che in macchina non scende mai così tanto, varia di 2-3 Santiago, però sempre se è in città arriva sempre intorno a quel segnale lì. E comunque era uno in macchina, voglio scherzare, dai, io stavo tornando al gioco, almeno ho detto, ma chi chiamare a Futivici, comunque, no, oggi di lunga. Mi è sembrato, infatti mi è saltato il pallino quando ho visto che a Genova non lo copiava, Tommaso Maristrano. No, può essere magari la propagazione che a volte è corta, capito? Ti sento un momento e poi ti sento un po' più. Gianni, ho fatto la spazzolata veloce, non c'è QRM da nessuna parte, non c'è propagazione da nessuna parte, sono i nomi. E chi lo sa tutto? Ehi, vabbè, là ce lo devi sì. Oh già. Lara. Ma io non capisco come mai in quella scarpetta lì, nonostante sia fatto apposta per ingresso anche ben più forte di 5 watt, saturi. Ed ha fatto già le prime volte, non riesco a capirlo. Cioè, predisposto per l'ingresso fino a 20 o 30 watt. E tu quanti ne stai dando in ingresso? Perché guarda che ti mangiava tutta la modulazione. No, ma perché non l'ho abbassato? Adesso te lo faccio vedere che non la mangia, guarda. Adesso lo abbasso. E ti faccio vedere che va bene, guarda. Aspetta. Guarda adesso come va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E un po' si sente la saturazione, adesso non so se sia la vicinanza, però caspita, io credo di aver sentito gente che lo metteva, vabbè su YouTube, lo metteva a 200 watt, pilotato con 4 penso, ma era praticamente limpida la modulazione. Come può essere questo piccolino qua, che però questo di watt adesso ne sta mettendo, vabbè sul filtro, 50 watt utili, dai, vabbè dai. Poi c'era quella storia ambigua che il venditore ti aveva venduto, a parte il connettore di alimentazione, che io, quanto ne sapevo io, tempo fa era compreso nel lineare. Cioè, nella fabbrica sembrava che risultasse tutto lì, sullo schema elettrico, sulle istruzioni. È come che lui l'avesse tolto dalla scatola per venderseli, capito, a caro prezzo a parte. È un po' lonfia la storia. Va bene, vado a fare il caffè, ora riprendi. No, me l'aveva detto anche Bulldozer che non lo mettevano. Di ordinarmelo da parte perché non lo mettevano, me l'aveva detto, perché l'ha avuto anche lui. Però vedi, scusa to, è scorretto, perché è come comprare un baracchino e te lo danno senza cavo di alimentazione. E ti dico, ma il cavo di alimentazione è 10 euro in più. No, non va bene, no. Poi me l'avesse detto, l'ha spedito e l'ho dovuto, capito, ricontattare per spedirmi il cavo. E vabbè, tutti così lavorano, con la lonfiaggine. Dai, Tore, riprendi. come quello che gli ho detto io. Io gli ho detto, fa una cosa, tienitelo, è così, te lo mangi con il cavo. È per rimasto male. Ma lo sai Marco che cosa è successo? Che quando l'ho portato a Bolore questo apparecchio qua, Albino gli ha alzato i watt, quindi prima era regolato bene, adesso i watt alzati, dovrei riaprirlo e riabbassare i watt, perché io lo usavo a 9 watt, adesso ne da 15, capito? Il mio già è velo verginello. Dai, io faccio puretti che mi cerco di preparare una cosa leggerissima stasera. Voglio essere leggero proprio come curico stanotte. Bene, bene, buon proseguo, dai. Ciao Marcolino, ciao Tore, ciao Gianni. Ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, di più di già. Ehi Tore, se vuoi un consiglio, verdura cotta, come ti riempie lo stomaco, così non mangi molta roba. Io facevo così, mi andavo bene, va bene, come vuoi. Ciao, buona carica quando la fai, ci sentiamo. Avanti ma. Ciao, sono in cucina ciao Tonino, buona correttissima, ci sentiamo le prossime. Vai Tore. Ciao ciao. C'è ancora Tore Squalo? Che c'è ancora? Tanto sta andando via subito anche io. Vai Tonino, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao. Vabbè dai, saluto a tutti io, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao ragazzi, statemi bene tutti quanti. Ciao Tore, ciao, ci sentiamo, buona serata, avanti Marco. Ehi, ciao Cattore, alle prossime, ci sentiamo, già io lo stesso sto staccando che se no non riesco a fare un caffè in cucina, ok? Gira gira, è presto ancora, ti conviene approfittare e farti la doccia e poi porti il cane. Vedi tu, dai. Ciao Gianni, stacco. Quelle ti per me. Ciao, buona serata a tutti. E così faccio Marco, dai, ti saluto. Ciao, buona carica quando la fai. Grazie per il consiglio. Ciao, ciao. Ehi, ciao Gianni, alle prossime ci sentiamo. Ciao Tore, ciao.